lo so, vi saluto, dai, ciao Natalino, grazie per la chiacchieratina, ciao Marco, buon pranzo, dai, ci sentiamo. Ciao ciao a tutti e due, grazie per le quattro chiacchiere e a Marco per i controlli che abbiamo fatto, che così mi ha aiutato a configurarlo questo qui là. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, QRT per me. Ciao Natalino, ricordati il manuale in italiano che ti ho mandato, dagli un'occhiata che poi ti ricordi meglio le cose. Ciao anche a Giulio, sì, io sto cucinando, oggi abbiamo fatto tardi perché abbiamo provato un po' la radio di Natalino e mi sono distratto un pochino, dai, ma tanto non fa niente, tanto non devo uscire. Cappa, Giulio, ciao anche a te, buona serata, buon tutto e ci risentiamo. Ok, ciao ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ciao di nuovo Natalino, ricordati Natalino che c'è anche il coso qui, lo smitter, e in questo apparecchio c'è anche lo smitter, per cui se te lo confermi, se te lo puntualizzi, vai tranquillo, puoi buttare via il rosmetro, non c'è problema, oltre che c'è anche l'alimentazione, per il voltaggio che gli vuoi dare, eccetera. Vabbè, ciao Natalia, alle prossime, ciao mamma. Производим заправку фреона, только после полной проверки системы вашего автомобиля. Режим работы с 9 до 30 часов. Телефон для связи 8-911-9241-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41 all'ascolto. C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Chi chiama? Natalino. Dimmi Natalino. Guarda, l'ho attaccato il microfono. Bello, molto bello. Era già fatto quel lavoretto lì. Adesso lo devo isolare e chiuderlo lo spinotto. Sì, probabilmente tu l'avevi usato su quell'altro. E poi così funziona anche sul 3009, hai capito? Sì, ascolta, dimmi a quanto hai il volume. Come? Il volume a quanto ce l'hai? A metà. Prova prima a metterlo a 3 e poi a 7, per curiosità. Adesso a metà, quindi 5. Prova a 3 e prova a 7. Adesso così è a 3. Sembra uguale. Prova a 7. Adesso è a 7. Sai così, allora 7 ti prende troppo rumore di fondo. Potresti lasciarlo addirittura a 3. Penso da 3 a 5 non oltre però. Sì, lo lascio a metà. Va bene così. 3000 portante muta? Sentirai il televisore però. L'ho fatto fare quello. Sì, sì. No, perché alla fine non cambia molto. Mettendo la 3 magari ti prende meno rumore. Una curiosità, ti fischia? Se avvicini il microfono all'apparato, ti fischia, ti fa il Larsen. Ma fischiando sa perché? No, ma era per sapere se avvicinandolo fischiava. No, non fischia, è vicino, è proprio davanti. Allora è probabile che la scheda sia diversa. O comunque hanno risolto quel problemino che avevano tutti gli altri. Aspetta che lo stacco questo, già parlo con l'altro, che devo chiuderlo lo spinotto di questo. E io fai, pensa che io sto mangiando adesso, cioè sto pranzando a merenda, vabbè. E c'era un bel di roba da fare, vabbè. Cosa Marco che non ho capito, c'è la televisione troppo alta. No, ho detto che tra mettere la lavatrice, aiutare mamma andare in bagno e tutto, sto pranzando adesso, pensa, all'ora della merenda. Vabbè, continua, dai, intanto io chiudo lo spinotto. Via. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova. Getting beat up is for a man too. Always remember that. Thank you. Hola. Avanti. Ciao Gianni. Ciao. E beh, come va? Bene, ma non ti ho riconosciuto. Vedi, sono Brian. Ah, ciao Brian, ben sentito, dai. Cappa. E sono tu, sì. Non mi hai riconosciuto comunque, dai. Sì, adesso sì. Sei Volpe. Cappa. Dal tuo modo di fare, perché stavi parlando a rate e quindi non riuscivo a capire chi. Forse questa radio beh, non è molto bella. No, non è che non sia bella, ma ti cambia la modulazione un po', capito? Quindi no, la modulazione è già perfetta, no? Non posso dire nulla, è 5. Non è gracchiosa, no? No, è chiara. È una radio normale, ma è chiara. Questa è una radio normalissima, non è transitorizzata, non è a valvole. A valvole? No, negativo, non è a valvola, è transistorizzata, perciò la valutazione è sempre quella, si conoscono i transistor. Cappa. E allora, cosa stai combinando di bello? Niente, avevo un po' di tempo a disposizione, ma stasera l'accendo, vedo un po' chi c'è, ne facciamo chiacchieratina, se è possibile, se no non c'è problema. Sì, ma solitamente... Adesso stanno entrando più tardi, verso le 7 così, poi io scendo a portare il cane, quindi mi perdo tutto il PSO, poi rientrano più tardi, dopo mangiato, capito? Ma non su 10, entrano gli altri canali. Ho capito, vabbè, io tempo a quell'ora non ne ho, il tempo a mia disposizione è fino alle 7:30, 8, dopodiché ho altri hobby da gestire, via. Sei sempre facendo serata? Beh, non proprio io, l'aiuto una persona mia cara. E a tua figlia? Gappasa. Ho capito, dai, vai a dargli una mano. Per forza, perché vabbè, non mi vado a dire le mie cose, comunque siccome non sta molto bene, allora per portare gli strumenti che sono pesanti gli do una mano a trasportarli eccetera, e poi anche al canto. Dai, così fai l'utile al dilettevole, dai. Insomma, mi diverto anch'io in qualche modo, sì, anche se io non è che mi piace molto il karaoke, io suono e quindi sono abituato a suonare lo strumento, la chitarra o la tastiera, perciò è così. Io lo so, vabbè, ma tutto quello che è musica è vita. Certo, la musica è sempre bella, è chiaro che una cosa è suonare e l'altro è cantare solo, che non è la stessa cosa, perché tu mentre parte il brano nel karaoke tu non fai altro che cantarlo e basta, quando invece suoni e canti è un po' più complicata la cosa. Direi. Però dai, ti puoi accompagnare meglio. Qualche volta mi prendo la chitarra e mi faccio qualche solo anch'io insieme alla canzone, non è che puoi andare sempre, in certi locali non vogliono, vengono creati degli scompensi con altri colleghi, eccetera, tutto è un magna queste cose. Da tutte le parti, anche i dottori per farti un certificato se ti prendono 70 euro, ieri sono andato, 70 euro per fare un certificato. Vabbè, non parlare di quello, perché stamattina ho accompagnato mia moglie per fare le analisi del sangue, ci voleva alla secca bianca e ci voleva l'appuntamento, signore, ma guardi, io come si fa l'appuntamento? E quando me lo date questo appuntamento? Beh, si faccia fare allora una richiesta urgente. Ho detto allora fa una cosa, lascia perdere tutto, sono andato al policlinico, fatta immediatamente. Ma infatti bisogna trovare le vie giuste lì. Anche io ho fatto così per fare delle visite, ho ho telefonato al CUP e non c'erano posti. Ho telefonato al policlinico, dice c'è un posto libero, ti interessa per domani. Sì, non mi sembra vero. Figurati se c'era un posto libero, tanti posti c'erano, no? Vabbè, non è che il policlinico lavora meno degli altri ospedali, è che essendo un privato l'accesso è maggiore rispetto alle aziende che non vogliono fare un cavolo all'ospedale civile, eccetera, eccetera. Non voglio dire altro. Ecco. Gianni, Santiago e Radio, per cortesia, QRK, che stavo provando questo microfono in questo apparato qua. Allora, Santiago 6920, il microfono è buono. Va bene. È molto forte, sì. E io che mi fa piacere, dai, che questo è un altro apparato che mi ho configurato oggi e anche il microfono sono riuscito a mettere, dai. Va bene, amici, è voi perché è più lontano, chiedi a lui. Ciao Natali, ben sentito. Ciao Vittorio, ben sentito anche a te. Come ti arrivo di radio? La radio è a bombola, il segnale è perfetto, non dico quanto è perfetto, quindi non c'è bisogno di dire certe cose. Quindi sei a posto. Grazie del QRK, dai, riprendete che io stavo facendo cosa qua, ma adesso ho perso il microfono. Originale dell'apparecchio, siamo rovinati se tutto va bene. Questo che microfono è? Questo è un MB4, l'MB4 che ho io, che ho dovuto praticamente il lavoretto gliel'avevo già fatto, però non mi ricordavo se gliel'avevo fatto per quello, per questo qui. Quindi ho dovuto riaprire lo spinotto, vedere un po', l'ho messo a posto là, già va bene, così va bene qua e nel 3009. Adesso però cerco il microfono normale suo, che non so dove l'ho fatto finire. Vabbè, comunque già ci bene con questo, non c'è problema. Vittorio, a te il Michelino. Già va bene, Natalino. Guarda, hai una moto, proprio la classica timbrica tua, come vocalità, è perfetto, non c'è da fare nessuna regolazione, così vai benissimo. Anche tu già, il tuo microfono lo sento proprio, anzi, devo farti un complimento già, hai una microfonia quasi telefonica, proprio come piace a me, per dire. Questo è l'MB4 col Galaxy, Saturn Echo. Vabbè, l'ho modificato comunque come microfono, gli ho fatto un ponticello che esclude delle resistenze che praticamente lo facevano uscire più basso. Sì, la modulazione è chiara e si sente leggermente, a mia esperienza, un po' l'amplificazione, ma pochissima roba, quasi percettibile, uno se non è pratico non riesce a sentirlo, però va benissimo. Ok, a te Nata. E K, l'ho ritrovato il microfono suo. K. E se non andava a chi l'ha visto te lo trovavano loro. Praticamente mi era caduto in terra mentre stavo saldando, facendo, e quindi l'avevo perso di vista. Ma vabbè, ok, almeno va bene anche nel 3009 questo qui, capito? Oggi era bello scendere a Platamona con questa bella giornata, che a prendersi un po' di sole. Me lo posso immaginare, purtroppo sono mal di schiena, ho preso un colpo della strega e poi non posso stare, sono 3 giorni così. E mettiti un po' di pomata, ti fai massaggiare la tua moglie un po', con qualche pomata buona, ci sono quelle pomate proprio per il trauma. E ho capito. Va bene. Ti voglio far sentire una cosa già, a vedere se ti piace questo beep. Fammela sentire. Guarda questo beep. Sì, si sente, ma poco, poco. Poco beep, fa quel beep. solo una cosa minima. E come quello del Colt, da. Già abbellito, non è fastidioso. Anda bene Meda, mi fa piacere, là. Ho risolto il tutto qua. Vittù, sempre con quell'antenna di 30 anni fa stai uscendo. E allora, mancano due radiali. No, ci sono rimasti quelli in parallelo. E mancano. E veggia, ma è tutto un blocco ormai, non fa neanche quella vuole. Io il giorno che la dovrò smontare, non lo so se lo farò, però gliela metto nuova e quella va tutta piegata, tutta in alta e la fa del rugo, il rugomodo. E vabbè, comunque casa ti è durata un po' di anni, quello c'è, cosa c'è? Tu la manto va 5. No, la manto va 1, però quella lì è stata smontata 3 volte e rimpiazzata, quindi prima era in Viale Portatore, la Viale Portatore è andata via Milano, da via Milano qui, e quindi però adesso quando l'avevo piazzata qua non era smontata tutta, l'ho dovuta portare perché non era smontabile, il telescopio che non si riusciva più a smollarli, e mi sono dovuto prendere un camioncino perché era lunga e non ci stava in macchina, e quindi e l'ho piazzata. E nel 78 l'avevo preso. Immaginati, antenne così non ve ne più, che durano così tanto, ma stazionare te ne dà. No, ne ho pochissime, ne ho, guarda, uno e sei di stazionaria, però va benissimo. Che tonne, se io c'ho 1 e 1. Vabbè, la mia è nuova comunque, l'ho piazzata da poco, l'ho piazzata il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre. Vabbè, tiene presente che gli anni sono quelli. La sto accordando con il ZG, l'ITM1000, cerco di accordarla il più possibile, ma di quella non fa. Certo. Vabbè, gli anni su, anche noi quando siamo anziani siamo tutti quanti a picci. Anzi, è già tanto che stia in piedi, dai, a quell'età lì. Avanti la infatti, io ce l'ho la mantova 5, c'ha 13 anni, perché quando io me ne sono andato da dove ho messo quell'antenna, c'aveva 2 mesi, se ne sta ridendo. Appena piazzata era. E allora, solo che sopra un palo da 12 metri, cata, e a Paranira vivo Gesù Cristo, oppure Santaro Grudamburu. E già si scende, basta andare un po' di persone, se puoi provare a scendere, che te lo fanno fare, vai con un po' di persone, se vuoi venga anch'io a darti una mano, non c'è problema. No, a me si può pure frasicà, tanto io antenne così pesanti qua non ne posso mettere, lo sai, no? Come? Lo so. Un peccato, poverino. Non ho lavorato molto, dai, l'hai fatto fare vita proprio da pascià. Sto dicendo che aveva 2 mesi quando me ne sono andato da lì ed è rimasta sempre attaccata lì l'antenna. Ma cosa vuoi che te dica? Sono cose che succedono. Se lo sapevo me la smontavo, prima almeno risultava pulita e tutto e me la vendevo. E io non la piazzavo direttamente lì. Ma vabbè. C'è solo così adesso, boh, la devi fare. Ma non la casatore c'è più andato quella che c'ha. No, me l'ho fittata. Hai fatto bene. Almeno qualche cosa la ricambi. Infatti non amo parlare con certa gente, e specialmente vederla. Hai capito? Lo so. Vabbè dai, interessante che qualche cosa ti serva. E infatti, tiriamo avanti. Appunto, l'avevi tutta ripitturata, no? No, è completamente ristrutturata. È l'affittuario che ce l'ha tutta ristrutturata a nuovo, l'ha anche praticamente ha buttato giù delle pareti, quindi l'ha fatta più grande, insomma è tutta un'altra cosa. Ah, l'ha proprio, le ha dato il permesso di lavorarci lei. Sì signore. Allora te l'ha rifatta a nuovo, là. Quando così tu devi andare, se vuoi andare lì, ce l'hai pronta. Infatti. Io non sto dicendo che mi sostituisce, ma quando se ne va quello lì, magari me ne andrò in estate lì, mi faccio qualche seminata, a viverci fisso no, perché mi toccherebbe incontrare certa gente ed è meglio che non li trovi. Vabbè, ma tutti e due, uno solo. No, tutti e due, vabbè, pure un altro. Si sono coalizzati, uscire. Ma io mi sono gugualizzato da rasura, sono ben attenti, perché con me hanno perso. Allora quando si faceva un braccino già va neanche a cruzzarlo. Avanti, Vittorio. Sì, vabbè, Natalia, io la tua storia un po' la conosco, per modo di dire, ma ricordati che queste persone che tu cui parli, io non voglio intervenire per carità a dire qualche cosa contro o cose, però vanno addomesticati coloro che hanno dei comportamenti anomali nei confronti dei tuoi, senza aggiungere altro, a te. Se voglio li addomestico bene, c'ho della carta in mano che canta, è poco intonata, mi. E quindi allora? Rischiano di doversene andare loro, mi, secondo come mi capita, capito? Sono carte che picchiano. A questi cudini i cigatti così, specialmente se firmate da loro in triplice coppia. Quello è il problema, però più tardi lo fai questo intervento, come si fa? Io per esperienza, siccome ne so, gli amici hanno avuto un problema tipo il tuo, e poi è andato tutto a morire e praticamente hai perso alla fine. Ma allora sai cosa ti dico? Non me ne sbatte nulla, io sto bene dove sono, tranquillo, non mi rompere scatole nessuno qua. Quindi più poco li vedo e meglio è, anzi è meglio che non li veda, lo sai che siccome io sono un po' fumantino, no? Lo sai chi succede a che cosa avea. Vabbè, però io sono sempre drastico con le cose, ma non bisognerebbe mai esagerare, perché se no ricordati che l'odio porta odio. Sì, infatti, io mi sto nel mio e loro si stanno nel loro, capito? A te già. E io ancora sono l'avvocato. Se no, vabbè, io le mie le cose le ho dette già, Natalino, lo sai già quello che penso io. E lui abitava in quella casa grande, se ne doveva stare lì e basta, no, non se ne doveva andare da lì. No, che toccava sempre stare a voci, a coso, per poco siamo venuti alle mani, da poco, è meglio stare tranquilli, che dopo io adesso, sono fumantino e non si sa mai cosa posso combinare, capito? È meglio che mi sia tranquillo, poi non mi devo adegare io, per la malattia che ho devo stare calmo, capito? Tu sei brigantino! Infatti, posso salire lì con un cerino e ti basta tutta la gabbura a me, ci basta a capo, quindi è meglio che mi sia tranquillo, che non mi rompano molto le scatole. Non vuoi accendere il fuoco praticamente? Infatti, voglio stare tranquillo, ogni mese adesso mi arriveranno dei soldi, quindi no, non me ne sbatte nulla, amico. In poche parole. Natalia, sai quanti ne conosco di persone che nell'ambito, diciamo, dove, che ha vissuto la vita, hanno approfittato e hanno praticamente, come si può dire, usare un termine, plagiato i loro congiunti, se si può dire, e quindi chi ha perso però è sempre stato quello che ha sempre soccombenzo. nei confronti di questi. Quindi perché devo soccombere quando io sono pari a te? Perché tu prendi i sopravventi quando non le puoi prendere? Poi le carte che cantano ci saranno, ma intanto non faranno mai niente, questo te lo posso assicurare, perché tanti che non conosco non sono riusciti mai a risolvere i loro problemi, purtroppo ho sempre perso. E poi passano gli anni e da poi uno si innalza e dice, vabbè, è che pensano i loro congiunti rimasti. Sai che se c'è una giustizia divina faranno la fine dei tuffi, quindi non ti preoccupare. Che ci sarà mia madre e mio padre che si staranno rivoltando nella tomba. Se c'è una giustizia divina, non ti preoccupare che non fanno una bella fine. Sì, senz'altro quello speriamo che esista, però c'è sempre il dubbio che queste persone che tu credi che non riusciranno a farla franca, però sempre c'è quel dubbio, perché siamo tutti credenti alla fine, però chissà se questo elemento che hai accennato tu può essere veritiero poi alla fine. E vabbè, io quando muovo mi cigava anime, hai capito Vittù? Però l'importante è che in vita ci guadagno qualcosa, sia io che mia moglie, capito? Perché quando muoio io, se muoio io c'è viva mia moglie in casa mia moglie, capito? Ah beh certo, l'importante è la salute, che è capillare, questo non ci piove. Però io sai cosa ti dico, che il tempo sarà consiglio. E infatti, tanto una bella fine non la fanno di certo quelle persone lì, hanno abusato troppo, capito? E io per stare tranquillo in pace devo purtroppo soccombere, perché per il carattere che ho io è meglio che soccomba, perché se no soccombono loro, ma male mi soccombono. Se ti do quindi massacabu qualche cosa di maru, ci rimettono loro, ma molto mi. Beh certo, quando uno ha le possibilità, perché tu già lo sai che io non è. Perché però dopo alla fine, quelli che tu ritieni che non sono consoni per il tuo volere possono andare via dalla vita in orizzontale e tu rimani in verticale, sì, punito, ma intanto Eddie non viso più, tu sì. No, io quello che mi resta da vivere, che non mi resta molto, me lo voglio godere, Vittù. Dai che m'appigli. Oia, a te già. Un attimo, sono a telefono. Non sono tempi più belli, no Natalie, stiamo arrivando ormai quasi al capolinea. Tu già lo sai, che l'età è quella che è. Tu dirai, non dimostri, sei giovane, è giovane, e là ne bisogna. E infatti ci sono gli anni, è che qua non posso dirti certe cose, magari se ci troviamo di persona te le dico e ti renderai conto, e ti faccio vedere anche la carta che canta. Ho capito, ma allora, sai quante volte ho fatto lì, in quella zona? Sei quella zona tua, guarda, anche stamattina ci sono passati, ma non mi posso fermare, lì non c'è parcheggio, è tutto un disastro quella zona lì, e quindi stavo pensando di chiamarti, ma la macchina dove la metti? Capito? È un disagio per il parcheggio, ecco perché altrimenti ci sarebbe venuto qualche volta a trovare. Ma ascolta, io la sto mettendo sotto il mercato la macchina, così non devo girare 50 volte l'isolato, c'ho l'abbonamento lì ogni mese, pago, però la macchina è lì tranquilla e non ne metto più in strada, qua me l'hanno rovinata in strada, e dispetti e colpi e vari mi l'hanno fatta a beffa. E da prima l'avessi fatto. Sono d'accordo, però uno che arriva lì e tu hai l'abbonamento e lo metti là. Però uno che deve arrivare lì e stare una mezz'oretta non può andare per metterla lì, anche perché io non mi posso permettere di metterla sotto nel sottosuolo, perché soffro un po' di gastrofobia e non mi piace, mi dà fastidio starmi tra sotto. Ad esempio, quando hanno aperto il Corso Santa Maria, tutti parcheggiavano, no, io non lo posso mettere, non ci posso andare sotto, capito? Mi fa male. E anche per quello non posso parcheggiare, quindi devo mettere in strada, devo essere libero. Sì, ho capito. E qualche volta magari che trovi qualche parcheggio, mi chiami, c'è qualche parcheggio sempre qua. Capito? Molte volte non ce n'è, ma molte volte sì. Io l'ho trovato parecchie volte, adesso che non sto mettendo la macchina trovo il parcheggio. Dimmi tu. E se non più tocco, chiami, passi a prendere, andate in un bar e chiacchierate. Tanto arriva in quel momento, ma sono casualmente, non è una cosa che lo trovi subito. Ma ti ripeto, ci sono passato stamattina due volte, andavo in via sua verso Francesco per una commissione. E niente, non ce n'è, proprio, è tutto occupato, quindi come fai? Non puoi stare sempre girando a vuoto e cose. Capita che passo, se lo trovo mi fermo apposta, se trovo il parcheggio. Ti chiamo, se ci sei, ci facciamo una chiacchieratina, ci prendiamo un caffè al bar. Ma quando vuoi venire basta che mi chiami e mi faccio trovare giù. Quando tu passi, posi macchina due, andiamo in bar e via. E ci prendiamo il caffè assieme, già sono un anno che non ti vedo adesso. Ti dico che mi fa molto piacere se ci vediamo. Vabbè, siamo da molto, ci vediamo, ci facciamo una chiacchierata, già lo sai a me, mi va. Sì. Però il tempo è tiranno, cavolo. Cioè, capito, deve capitare proprio il giorno che hai un po' di tempo. Ad esempio, quando è un mese fa circa, sono dovuto andare, perché la visita per gli occhi, non so se tu conosci, c'è dall'altra parte del ponte, lì in via Bugino, un certo Stini, lo conosci? No, io conosco l'ottica Agri che c'è lì, però altro medico oculista non ne conosco lì, ed è in via Bugino, così è. Io lo conosco, mi ha anche operato. Di fronte a un circolo dove c'è il capitano. Forse dove c'era la mia dottoressa, dove c'era prima la mia dottoressa. Che è venuto a fare? Questo dottoressa dice dottore. Cercavo lì. A fianco a quel negozio di scarpe che c'era prima, ti ricordi Natalia, quel negozio di scarpe a fianco. E allora è un dì la dottoressa mia, dai. Quello mi ha operato anche a me, ho visto. Davvero? Sì, è bravissimo. Sì. Mi ha anche operato, mi ha operato la cataratta. Sì, so che opera la cataratta. No, io sono andato per visita, così, io non ho fatto mai una visita agli occhi in vita mia. E mi ha controllato tutto quanto e praticamente si è accorto che ho il glaucoma. Cavolo! E gli ho detto cosa significa? Perché proprio non sapevo, ero, sono digiuno a conoscere certe situazioni di fisiche. E quindi mi ha spiegato, lì c'è un glaucoma. E tu cosa significa? E lei mi perde la vista, se no, allora mi ha dato queste gocce e sto mettendo le gocce di mattina e di sera. Non l'ho persa un po', vedo un pochettino annebbiato, però vedo bene, insomma, chissà che non la perda, perché va a cecità, non bisogna già. Ho detto che dottor Sirio lo conosco da ragazzo perché era nel coro del Sacro Cuore, io abitavo lì a Sacro Cuore e frequentavo lì e lui era nel coro della chiesa. Ah, allora lo interpellerò per quanto riguarda la musica. La moglie la conosci? La moglie si chiama, mi pare, Frau, mi pare di cognome. No, ho conosciuto quella ragazza che prende le cose, come si chiama. Ah, ho capito. Loro erano tutti e due nel coro, si sono conosciuti lì, ho capito. E li conosco da ragazzi proprio, ragazzi e ragazzi. Ma dimmi una cosa, sai quanti anni ha per caso? Ah, penso che ne abbia sono 62, 63. Ma lo credevo più anziano, perché c'è un viso un po' strano. Sì, sì, più o meno è quell'età lì, c'è. Più o meno c'è l'età mia, capito? Lui era ragazzo quando ero ragazzo io. Comunque ha l'aspetto di avere qualche anno in più, per quanto riguarda anche l'altezza, non è che ha, è più basso di me. Sì, sì, sì, è stato sempre così. È stato sempre. Miguelino era stato sempre così. Però molto bravo come dottore. Mi pare che sia anche primario, se non sbaglio. Non lo so, so che c'è, comunque in quel laboratorio c'ha parecchi strumenti, mi ha fatto fare prima la cosa, io non ci capisco niente per quanto riguarda l'ottica, il calore, poi mi ha fatto fare una cosa, un pulsante per quando uscivano le frecce, un pulsante per premere, per schiacciare, adesso non so, non conosco i termini di queste cose qua. E comunque ho visto che c'ha apparecchiature abbastanza buone, insomma, anche se sono un po' vecchiotte però. Sofisticate, no? Vabbè, io ieri ho fatto in farmacia, sono andato a comprare dei medicinali e la dottoressa mi ha detto se mi interessava fare l'esame dell'udito. E gli ho detto se è gratis, sì, sì, se si pagano. No, no, è gratis, vabbè, allora lo faccio. E ho fatto l'esame dell'udito. E com'è andata? Allora, l'orecchio è perfetto, l'orecchio destro invece c'ha praticamente, lui sa cosa faceva, mi metteva diverse frequenze, mi faceva sentire dei suoni, dovevo alzare la mano quando sentivo i suoni, no? E praticamente i suoni andavano e abbassavano, anche se li sentivo bassi in bassi dovevo alzare la mano. Praticamente col destro certi suoni non li percepisco, ma proprio alla fine, quelli che sono proprio deboli deboli, invece con l'altro li percepisco tutti, ma mi ha detto che è una cosa, non è da certo da mettere apparecchiature. Io ho capito, vabbè, certo, l'udito non è molto importante quanto l'oculistica, perché l'udito praticamente ci sono oggi, ci sono amplificatori che tu lo metti lì, stai, senti anche i micro, metti le mosche da 200 metri, non è quello il problema. Però gli occhi sono importanti, gli occhi sono più importanti dell'udito. E io dovrei andare perché mi sta succedendo una cosa, che forse sono la stanchezza, la secchezza degli occhi, a una certa ora mi bruciano gli occhi. E la dottoressa della farmacia mi ha dato delle gocce da mettere, le ho messe, quando metto queste gocce mi passa, però mi ha detto che questa sia la secchezza dell'occhio, che perché c'è gente che soffre di secchezza, proprio si asciuga l'occhio e ti brucia, tu commetti uno strofini, ti brucia. E invece può essere anche un'allergia, mi ha detto. Mi ha detto, ma mi cola anche il naso? E qualche volta sì, mi cola il naso e dal naso mi cola là, tipo acqua. E mi ha detto, può essere anche un'allergia a qualcosa. Ma secondo me è la pressione. La pressione è ottica. Certo. Ma chi lo sa. È la pressione, quando fa così la pressione, non so se ti fa ad esempio qualche volta che hai come, tu non hai mai saldato ad esempio, hai fatto mai qualche saldatura elettrica con l'elettro, una saldatura col metallo? A voglia, io ho il diploma, sono saldatore elettro ossia acetilenico. Ecco, allora, ti ricordi quando tu andavi, mettevi l'elettro e la luce, ti beccava la luce? Ecco, quello lì che fa quella specie di, come dire, come se avessi delle schegge dentro l'occhio, ce lo fa? Sì, qualche volta me lo fa, come se vedessi dei moscerini, delle cose. Ecco, quella è la pressione. No, ma a me l'oculista ha detto che quello è spulcista che c'è dentro l'occhio. E praticamente c'è chi la rimuove con i laser, però a volte andando a rimuoverla, come il laser la fa pezzettini piccoli, si sparge e invece di togliertela praticamente si sparge tutto l'occhio, quindi non conviene toglierla. Ma me lo fa molto di rado. Mi aspetto un attimo, due minuti. Comunque questa cosa a volte me lo fa anche da addormentato. Io ho pensato che fosse sforzando l'occhio quando il cellulare, al computer, eccetera. Invece no, me lo fa a volte anche quando sono addormentato, mi sveglio e c'è gli occhi che mi brucia. Natale, tata. Natalino sta facendo cosa? Ciao Concetta, buonasera. Ciao, grazie. Ciao, va bene. Natalino, meno male che c'ha la segretaria che interviene. Vito, mi allontano un attimo, dai, è un 10 minuti. Rientrato, già ci sei? Natalie, ci sei? Gianni, ci sei? Rientrato, ci sei? Hola. Hola. Vittorio, ci sei ancora?